later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce, quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli, macabro ciclo della vita e della morte non accenna a rallentare, K e Drago si stanno trasformando. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Kappa, adesso però vedo che anche tu hai gli occhi ai lati della testa. Infatti gli occhiali non mi servono più, vedi? Modificali, cioè, chiedi a Elton John, magari ce n'è un paio che vanno bene anche per te. Oppure posso mettermi un paio di lenti da mettere sul becco, capito? Sai come Paperon de Paperoni, sì, che ha gli occhiali piccoli e gli occhi grandi, ma mi sembra che ci veda benissimo, quindi potrebbe funzionare. Come fai a metterli sul becco se il becco non ce l'hai? Sì, vabbè, ma è solo questione di tempo, poi cresce anche il becco. E col becco mi sentirei più a mio agio, insomma, più... Anch'io. Ci credo, Io se non avessi il mio becco non mi sentirei mica a mio agio, No. Poi vedrete che una volta che avrete il becco, tutto vi sembrerà giusto e normale. Giusto e normale, sì. Però se poi ce lo piallano... Vabbè, lì siete voi che dovete stare attenti, Io sono stato attento e il becco ce l'ho ancora. Però sei in sbattimento. Vabbè, ma io prendo la paroxetina e mi passano, Ora l'etologo studia il loro sguardo perso, il veterinario cura il loro umore inverso. Erano uomini alti e pure belli, si ritrovarono per sempre ad essere polli. Così va il mondo così va, chi va col pollo impara a razzolare, scherza coi polli, ma lascia stare i polli. And so we sing together. Peace to you, Kappa e Drago. Peace to you, Drago e Kappa. Peace to you, Kappa e Drago. Peace to you, Drago. Allora amici, con questa settimana si chiude il primo semestre di attività. Questa riunione serve a fare un bilancio. Facciamo un consuntivo della mia gestione qua l'amministratore delegato. E voi vi chiederete, sì, ma il bilancio se lo fa da solo? E io sono qui per rispondere anche a questa domanda. Peraltro indice di malfidenza e di mancanza di rispetto. Vabbè, un amministratore delegato può e deve avere l'equilibrio e l'onestà necessarie per sapersi autogiudicare e, se è il caso, autocondannarsi. Però tanto qui non c'è niente da autocondannare, perché io mi autoassolvo. I motivi sono tanti e sono anche noiosi, per cui ve li risparmio. Ma sappiate che il bilancio di questo primo semestre è positivo, nettamente positivo. E il merito è anche mio. O le pizzette arrivano o no? Scattini? Scattini! La sua soglia dell'attenzione è sempre la solita. Lei non riesce a concentrarsi. Si occupi delle pizzette, per favore. Chicken Jeep. Crap. Compagni peccioni pensionati, è il momento di versare la quota di iscrizione al sindacato. E non fate gli indiani, che non siete indiani e lo sapete bene che non siete indiani. La quota annuale che vi garantisce la protezione del sindacato. La vogliamo versare o no? Che voi siete tutti capaci di battere la mano quando vi difendo. Però poi quando c'è da dimostrare fedeltà, serietà e appartenenza, fate tutte finta di niente come scarafaggi in cucina nei bei mezzo della notte. Fate i motti, state immobili. Io chiedo e voi non date. Io chiedo e voi non rispondete. Avete imparato troppo bene a stare immobile e indifferenti. Sono io che ve l'ho insegnato. E allora, mosciatemi il rispetto che mi è dovuto. E non fate gli indiani, che indiani non siete. Pagate la quota di iscrizione obbligatoria al sindacato dei piccioni picciotti pensionati. Viva l'Italia! E viva la libertà! Ragazzi, ma che brutta cera! Questa è Dixie, la padrona del reparto femminile della fabbrica di polli. Sì, che poi prende anche in giro. E poi più che altro, Drago, è la maîtresse del mestiere più antico del mondo. Cappa, come al solito sei molto galante. Sì, vabbè, ma non ci davamo del lei poi? Oh, non mi sembra proprio. A me sembra di sì. No, dai, smettetela. Sembrate Liz Taylor e Richard Burton. Chi? Richard Burton. Ma perché? Scusa, non siamo mica ubriachi molesti. Vabbè, io sono solo un po' raffreddato. Siete davvero messi male, ragazzi. No, raffreddai, raffreddore. Forse dovreste farvi un esame di coscienza. Un esame di coscienza perché, scusa? Perché non si diventa polli così, per caso. Ah no, e tu perché sei diventata una gallina, allora? Beh, questi sono affari miei. Dai, Dixie, dacci un antidoto, un filtro, un qualcosa che possa frenare questa pollizzazione. Ci sarebbe un metodo, ma dovete prima cedermi tutti i vostri beni materiali, immobili compresi. Perché se no non funziona. Il notaio lo pago io. Drago, questa proposta mi puzza. Eh beh, voglio vedere, sembra la proposta di una maga dei VIP. C'è una formula magica che vi fa tornare uomini. Ecco. Con il solo inconveniente che tornerete anche ragazzini. Ragazzini? Sì, ragazzini. Ma come? 19 anni per sempre. 19 forever. Yes, I'll be 19 forever. 19 forever. Yes, I'll be 19 forever. Bravissimi! Avete visto che è stato facile? Il notaio Tacchini è vecchio, ma bravo. Vabbè, notaio Tacchini. Vabbè, ma adesso cosa succede, scusa? Adesso chiudete gli occhi, stringete le chiappe e... Uno, due, tre. Suspense. Uè, Kappa, come va? Bella, Drago, figa, non ce la faccio più, mi voglio ammazzare. Anch'io se è per questo, La vita fa schifo. È vero, per noi giovani la vita è senza possibilità, perché i vecchi stanno al potere e ci tolgono la libertà. Sì, la società è composta da persone tutte uguali che sono come dei numeri, mentre noi giovani ribelli rantoliamo nel buio nelle nostre stanzette e nessuno che ci ascolta. E allora ci viene voglia di ammazzarci. Che paranoia, Kappa. E poi gliel'ho detto a mia madre. I 50 euro che mi hanno dato per Natale li ho spesi in cose utili, non nella droga come dice lei. Ma lei non mi crede. E cosa hai comprato? La droga. Ah. Ma a lei ho fatto vedere una ricevuta che ho trovato davanti a un negozio. Capito? Un paio di jeans. L'ho fregata. Però me li ha dati lo stesso. Cosa? Altri 50 euro? Ma no, due calci nel c***o. Però hai comprato la droga. Che cosa succederà adesso? Kappa e Drago resteranno per sempre adolescenti o ritorneranno a essere quei due pezzi d'uomini che sono abituati a essere? Lo scoprirete sintonizzandovi domani a mezzanotte su Radio 3 per il quart'ultimo pubescente allestimento de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce, non nuoce quasi mai. This program is on the air every night at the same hour. Good night, ladies and gentlemen, good night. Let me take you down as we go into strawberry fields. Nothing is real. Na na na na na na na na. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever.